as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui a Il Pane e Rose. Oggi giornata diversa dalle altre, una puntata in cui non parleremo di metalmeccanici, di lotte operaie, di accordi, contratti, questioni sindacali, ma parleremo di ambiente. L'abbiamo fatto già diverse volte. Sapete che i lavoratori metalmeccanici sono scesi in piazza diverse volte, soprattutto a Bologna, insieme ai ragazzi del Fridays for Future. Siamo stati impegnati anche noi ormai un mese dal momento dopo l'alluvione, siamo stati insieme agli Angeli del Fango e chiaramente siamo andati domenica l'11 giugno al parco di Villa Angeletti, in cui c'è stato un bellissimo festival organizzato dai volontari di PLAT, che sarebbe la piattaforma di intervento sociale. Chiaramente è stata organizzata per raccogliere i fondi, per realizzare progetti per le popolazioni colpite dall'alluvione, ma in cui si è discusso anche di perché c'è stata questa alluvione. C'è stata una conferenza scientifica la mattina in cui ricercatori che hanno, insomma, parlato di crisi climatica e di quello che sta accadendo in Italia e in tutto il mondo. Dalle 15 poi c'è stata la parte musicale, un sacco di stand di varie associazioni che hanno partecipato alla piattaforma di intervento sociale. C'erano i ragazzi migliori, io penso, del nostro paese, quelli che sono andati lì ad aiutare senza scopi politici, ma veramente per dare una mano, ma con un aspetto critico, perché gli interventi che ci sono stati tra un gruppo e un altro hanno chiarito che loro non sono semplici volontari che vanno lì a sparare il fango, non sono la protezione civile. I ragazzi hanno delle idee, infatti hanno promosso una manifestazione che ci sarà il 17 a Bologna, in piazza 20 settembre, una manifestazione che vedrà gli Angeli del Fango insieme ad altre organizzazioni portare il fango che hanno raccolto davanti alla regione da Bonaccini. Perché? Perché per dirgli che non accettano il fatto che si possa ricostruire come prima senza cambiare tutto quello che è accaduto in questi anni, la cementificazione violenta, esagerata, senza veramente guardare a quello che sta accadendo. Diranno no al passante, perché il passante nord ruberà tanto tanto verde e dunque altro cemento, e diranno no al rigassificatore di Ravenna. Ecco, chiaramente noi ci uniamo a quelle manifestazioni, il 17 piazza 20 settembre saremo anche lì, anche noi, e per arrivare fino in regione, dire a Bonaccini non si può andare avanti così. Adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo di un cantante che a me piace molto, Liberato, Partenope, e poi sentiamo un'intervista che ho fatto a Marco, uno dei volontari di PLAT, di piattaforma di intervento sociale. Poi, insomma, ci sentiamo per conclusione. Oggi ho stresa a tagliare una mattina ti incontrai, a cominciare a cantare, non l'ho fatto mai. Stai calma, rispondi se una maniera mi appara, ci stanno te compagna, mo non posso parlare. A prima volta scelta ma o mare mi portai, ricetta mi fai chiagnere, tu mi fai male assai. E poi valore in tacchi il momento che passai, a mo su una sirena, ricetta mi guardai. Ci piace a ballare, danza tutta quanta, no non se ne fu, di chi ci sta in danza, riesce a capo, con una sola inganna, sempre va più. piace, ormai qualcuno manna che se la diventa, ma non so pensa, ci piace fa film nei conferenze, che la voce n'ha, ma senza licenza, baby non te posso fare esistenza. Non si perde mai una festa, na-na-na-na. Indurite una tempesta, na-na-na-na. Namorato for the first time, na-na-na-na. Lieto da camisella, na-na-na-na. Bascio sta scalinatella, na-na-na-na. Ori da te la ninella, na-na-na-na. Come testa viscerella, na-na-na-na. Un giostre santa chiara a mezzanotte mo portai. Comincia a parlare, non l'avevo fatta mai. Stai calma, ma c'è stanno fatto che da già conta. Ammo su una sirena, ricette ma guardai. Di chi c'è stannanza, sempre con una nega sta cucchiana. A famoro park, la rimembrana. Ma che c'è stanna, che stanna, na na na. Cucchella di principessa, na na na na. Parte, nessuno ma pensai, non dona duona che sta piccirella da funnai, amore una sirena, ricette ma guardai. Allora, siamo qui a Villa Angeletti, siamo con chi sta organizzando questa bellissima iniziativa, gli Angeli del Fango. Siete qui oggi, dopo un mese, no? Circa, no, meno di un mese, per... Sì. Dall'alluvione, tutti i giorni centinaia di persone sono partite per cercare di dare una mano nelle zone alluvionate, però contemporaneamente fin dalla prima assemblea ci siamo dette e detti che al fianco della solidarietà ci deve essere anche rabbia, rabbia perché questa alluvione non è un caso, non è una sfortuna che ci è capitata, è frutto di scelte politiche ben precise che in questi anni hanno continuato da una parte a investire sulle fonti fossili che producono e provocano il cambiamento climatico e dall'altra a investire sulla cementificazione del territorio. La regione Emilia-Romagna è in testa alle classifiche italiane per quanto riguarda la cementificazione del territorio, anche negli ultimi anni, nonostante il presidente Bonaccini dica che saremo la regione più virtuosa d'Italia. Per questo oggi siamo in questo parco per fare questo festival con migliaia di persone, a raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate, ma anche per costruire insieme la mobilitazione di sabato prossimo, una marcia popolare che partirà alle 16 da piazza 20 settembre e andrà alla regione Emilia-Romagna per portare con i nostri secchi il fango che queste settimane abbiamo spalato e per dire chiaramente che qui ci sono delle responsabilità politiche evidenti, che non è possibile ricostruire tutto come prima, come afferma la regione, come affermano i comuni, eccetera, che bisogna pensare a una ricostruzione sociale dal basso, in cui pensare appunto a come affrontare la crisi climatica e mettere da parte quella volontà egoistica di continuare a costruire profitti sulle spalle di tanti. Allora, tu sei andato nelle zone alluvionate, no? Immagino. Certo. Sì. Allora, come sai benissimo, insomma, l'abbiamo visto tutti, ci sono state delle mancanze, perché quello che noi discutiamo, io lavoro in fabbrica, sono un operaio meccanico, faccio parte della FIOM, non solo la FIOM ma anche altri sindacati sono venuti a darvi una mano, e noi abbiamo notato che le cose in realtà non sono andate come dovrebbero, cioè sono state delle mancanze. Poi io non sono un geologo, però l'impressione che tutti hanno avuto è che si poteva limitare il danno. Certamente è arrivato tanta acqua e nessuno si aspettava. Voi cosa ne pensate? Cioè, voi siete stati là tutti i giorni su questo? C'è solo la speculazione o c'è anche altro? No, certamente l'alluvione è diventata catastrofe proprio perché in questi anni si è continuato a maltrattare il territorio, a continuare a costruire anche in zone di rischio alluvionale. Su questo la regione Emilia-Romagna ha il primato nazionale, negli ultimi anni ha cementificato più di tutto in zone che sono a rischio alluvionale e vuole continuare a cementificare, tanto è vero che abbiamo un sacco di progetti per grandi opere che consumerebbero centinaia di ettari di territorio. Non lo diciamo del resto solo noi, questa mattina abbiamo fatto una conferenza scientifica in cui abbiamo avuto delle persone che su queste cose studiano e lavorano e ci hanno confermato che non si può andare avanti in questa maniera, che non si può pensare che noi continuiamo a costruire infinitamente in un mondo che ha delle risorse finite e degli spazi finiti. Bisogna invece ridare spazio alla natura, bisogna ridare spazio all'acqua, ai fiumi, al territorio e pensare a un modo diverso di immaginare il futuro della nostra regione. Io ho visto il comunicato che avete fatto per il 17, ci sono anche un appello al fatto che siete contrari al rigassificatore di Ravenna e no al ponte. No al passante. Sì, quelle sono le due opere simbolo che abbiamo identificato, simboliche perché questa regione è piena di contraddizioni e di opere devastanti, ma il rigassificatore è simbolico perché rappresenta in qualche maniera la testardaggine di voler continuare a investire sulle fonti fossili quando noi sappiamo che le fonti fossili provocano il riscaldamento globale che poi provoca queste situazioni meteorologiche. E il passante invece, che non è anche questa l'unica opera devastante, ma è l'opera simbolo della volontà di voler continuare a cementificare questo territorio, non solo per i 40 ettari che si consumerebbero realizzando l'allargamento del passante, ma anche perché allargare il passante significa per Società Autostrade poter allargare tutte le autostrade di questa regione con centinaia e centinaia di ettari cementificati da zero. E questo è inaccettabile in un momento in cui noi viviamo le alluvioni sulle nostre spalle, nel momento in cui decine di migliaia di famiglie perdono tutto, nel momento in cui le nostre città sono imbrattate dal fango per colpa di chi ha voluto continuare a persistere in questa strada. Il 17, secondo me, è una delle cose che mi è piaciuta e sono d'accordissimo con voi, è il fatto che basta soldi alle armi, perché sappiamo c'è una guerra in atto, si trovano solo i soldi per le armi, molto probabilmente non si troveranno nemmeno i soldi per rimettere a posto questa regione. Certo, questa è la storia che viviamo da anni e anni, ci sono alcune scelte politiche che servono, è tra queste, su queste si investono fior di miliardi per poi contribuire alle escalation belliche, e dall'altra parte si abbandonano interi territori, e il nostro Appennino ne è un esempio concreto, e per questo in queste settimane purtroppo è franato ed è stato devastato in maniera importante. Oggi qui vediamo una bella presenza di un sacco di giovani, e io sinceramente, visto anche qualcuno che è arrivato non proprio bene, cioè che per me è meglio che si stava a casa, no? Sappiamo dei fascisti che sono venuti anche a dare una mano in alcuni territori cosiddetti, per me voi siete degli angeli del fango, siete la parte migliore di questo paese, e oggi lo state dimostrando con questa bella iniziativa. Sì, è una bella risposta, ma l'abbiamo vista fin dai primi giorni dopo l'alluvione, quando appunto ogni mattina centinaia di ragazze e ragazzi venivano e si rendevano disponibili per partire per le aree alluvionate. Una bella risposta soprattutto a chi in quei giorni ha detto: voi, ecco, vandali che imbrattate i palazzi per rivendicare il vostro diritto al futuro, ecco, fate una cosa migliore, andate a spalare. Queste ragazze e questi ragazzi sono andati a spalare, chi ha detto queste parole invece è restato comodo nei propri uffici a sparare fesserie. Speriamo di non dover più spalare del fango, questo è il nostro auspicio, e speriamo che questo paese cambi. Certo, è l'auspicio di tutti. Partendo dal 17. Ed ovviamente cambierà se sapremo essere in grado di essere protagoniste e protagonisti e di costruire percorsi di alternativa in cui realizzare altrovi possibili. Dunque il 17 alle 4, piazza 20 settembre. Esatto. Si arriverà fino in regione. Esatto, andremo fino alla sede della regione, farà caldo, quindi portiamoci dell'acqua, portiamoci degli ombrelli per ripararci dal sole, ma andiamo determinati e determinati, con tanta voglia di protestare, di far sentire la nostra voce, di portare il fango laddove è giusto portarlo. Chi è che organizza queste manifestazioni? Lo organizzano le volontarie e i volontari che in quest'ultimo mese sono andati a spalare il fango, e le tante realtà sociali di questi territori, Bologna ma anche della regione, che in queste settimane si sono impegnati in questo percorso. Ok, allora tutti quanti il 17 alle 4 in piazza 20 settembre, mi raccomando. Esatto, ci vediamo sabato prossimo. Ciao Marco. Ciao. Dream. Allora, avete ascoltato Neil Young in un pezzo storico famoso, considerato tra i pezzi più ambientalisti della storia del rock, Madre Terra. E avete ascoltato prima di Neil Young, Marco, di Bologna for Climate Justice, che, che fa parte della piattaforma, della PLAT, che hanno organizzato gli aiuti agli alluvionati dell'Emilia Romagna. Marco ci ha detto cose che sono importanti, ha spiegato come i cosiddetti angeli del fango sono andati ad aiutare con uno spirito critico, non sono semplici volontari che sono andati lì a dare una mano e basta. Certo, l'hanno fatto, sono arrivati prima della protezione civile, quando non c'era nessuno che dava una mano, la storia la conoscete tutti quanti, ma in realtà sono andati lì come movimento politico per la giustizia climatica, perché come anima cosciente del fatto che quello che è successo ha dei responsabili e c'è una causa, non è stato un semplice, no? Una semplice disgrazia, una cosa imprevista, imprevedibile, che nessuno si aspettava. Sono anni che chi si occupa di clima, chi si occupa di dissesto geologico grida aiuto, aiuto, sistemiamo il nostro territorio, basta la cementificazione, cominciamo a fare quello che serve veramente per evitare queste disgrazie, diamo una mano al nostro pianeta, non continuiamo a distruggerlo, evitiamo le speculazioni, evitiamo che le lobby del cemento siano sempre quelle che in questo paese, in Emilia Romagna in primis, sono quelle che trovano sempre spazi, soldi e possibilità di svilupparsi a discapito poi dell'ambiente e poi della nostra vita. Ecco, noi siamo con loro il 17 alle ore 16 sabato a Bologna in piazza 20 settembre, ci sarà manifestazione, mi raccomando, noi siamo qui per pubblicizzare questa iniziativa. È un'iniziativa che riguarda tutti, tutti quelli che sono, perché questo pianeta non arrivi a una situazione insostenibile per l'umanità, per l'ambiente, per gli animali, per tutti. Avete visto che sta succedendo, avete visto i danni che vengono causati dal capitalismo, dalle speculazioni, insomma, da quello che l'uomo sta facendo alla natura e come la natura si ribella a questo. Ecco. Io vi saluto e vi invito alla prossima puntata e mi raccomando, tutti quanti in piazza il 17 sabato, in piazza 20 settembre, ore 16, e si va in regione. Ciao! Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos